L'obiettivo dell'Università del Bene Comune è di tentare di promuovere le forme di educazione e di ricerca sui campi relativi al bene comune, perché bisogna oggi riconoscere che l'università sta sempre più infedurandosi, cioè sta diventando sempre più uno strumento unicamente al servizio dell'economia e al servizio della competitività delle imprese. Nel senso che oggi dice, ma tu vai a scuola oppure vai all'università per fare cosa? Per diventare, si dice, una risorsa umana altamente qualificata di cui hanno bisogno le imprese multinazionali, per esempio italiane o francesi o giapponesi, per essere competitive sui mercati mondiali. E noi invece diciamo che non è questo l'obiettivo dell'università, che non è l'università che deve creare dei politecnici per essere a servizio delle esigenze della competitività economica per la sopravvivenza sui mercati mondiali, ma che invece l'obiettivo principale dell'educazione e dell'università in particolare è quello di formare delle persone che sanno vivere insieme. L'obiettivo nel contesto della mondializzazione attuale di cui tanto si parla non è di essere più forte, ma l'obiettivo di un'educazione del cittadino è di imparare come si fa a vivere insieme, come si fa a risolvere i problemi dell'inquinamento, della distruzione della natura, come si fa a diminuire una gestione disastrosa delle risorse naturali, come si fa a evitare la guerra, come si fa a creare situazioni, rapporti pacifici tra la gente, come si fa a evitare il razzismo, lo xenofismo sempre più crescente, come si fa a combattere l'individualismo oramai che caratterizza tutti noi, perché tutti noi siamo sempre più educati a dire che dobbiamo pensare a noi stessi, come si fa a eliminare che tutto il valore che può essere fonte di ispirazione e di creatività delle persone sia solo un valore finanziario. Ecco, per questo parliamo di bene comune. Allora noi abbiamo strutturato questa università attorno a quattro grandi campi della problematica del vivere insieme. Come si impara a vivere insieme? Che è l'acqua. Come primo esempio pratico, evidente, di questo bene comune essenziale alla vita per tutti. Tutti devono avere il diritto all'acqua, invece non è vero, perché praticamente oggi manteniamo ancora più di 1,5 miliardi di persone senza accesso all'acqua potabile, cioè dire senza accesso alla vita. Siamo una società che accetta che ci siano miliardi di gente che non hanno diritto alla vita. Questo invece bisogna cominciare a tentare di cambiarlo, ma rapidamente. E quindi l'acqua diventa simbolicamente il punto di entrata per questo bene comune organizzato a livello mondiale. La seconda facoltà è per appunto la facoltà della mondialità, la mondialità della condizione umana, e quindi fa tentare di capire che questa mondialità è una condizione essenziale del stare, dell'abitare il pianeta. E terza facoltà è quella facoltà dell'immaginazione. Perché dell'immaginazione? Perché in fondo la conoscenza dipende dall'immaginazione, ogni atto conoscitivo ha la sua origine nell'immaginario. E quindi la quarta, anche poi, facoltà si basa sul principio dell'alterità. L'alterità, cioè dire, imparare a dire buongiorno all'altro. Oggi, anche a scuola, nelle scuole secondarie, già non si impara a dire buongiorno all'altro. Soprattutto oggi, che si dice che il mondo è diviso ormai tra il bene e il male, che noi siamo il bene, la società occidentale, la civiltà occidentale, che il male è i non occidentali, sono gli arabi, gli islamisti, eccetera, eccetera. Invece dobbiamo dire che l'esistenza dell'altro, l'esistenza di un musulmano è condizione per l'esistenza di un induista o di un indù o di un cattolico o di un laico, eccetera, eccetera.